Siamo in collegamento con Livio Vicini, Bergamo per il Kosovo, un responsabile dei progetti a Pečpeja. Le elezioni in Kosovo che hanno messo in luce quello che già da tempo si diceva, cioè che i serbi avrebbero boicottato questo appuntamento. Livio, un commento innanzitutto su quella che è stata la giornata lì nella zona dove siete voi. Cosa è successo? Allora, sabato, devo dire, è stata una giornata molto tranquilla, sia in città che qua nei villaggi. Purtroppo, come già tutti sapevamo, nei nostri villaggi dove stiamo operando, nessuno è andato a votare, nonostante ci fosse la presenza di UNMI che ORSI che invitava loro in qualsiasi modo di andare a votare. Ovviamente ci sono diverse ragioni per il fatto che non abbiano votato. Una di queste è che appunto non è stato preparato un programma in tempo, diciamo, per cui la gente che è arrivata qua da un mese non ha potuto in qualche modo sapere chi erano i propri rappresentanti, qual era il programma dei rappresentanti che concorrevano per le elezioni. Sicuramente c'è anche l'altra pressione che viene dalla Serbia, da Belgrado in particolare, dove appunto i leader Kostunica e i leader religiosi che sono padre Artemis hanno invitato la gente a non votare, a boicottare. Perché l'invito a boicottare, a non votare? Beh, una delle ragioni principali è che appunto non si sentono al momento ancora garantiti dalle leggi che vigono in Kosovo, per cui una delle ragioni è la libertà di movimento, ancora non si sentono liberi o sicuri di poter andare in città oppure di uscire senza comunque essere accompagnati da qualche internazionale. L'altra ragione è non vedono dei chiari segnali di sostenibilità per il futuro, per il loro futuro qua. Ovviamente questo deve essere in qualche modo arrangiato e deciso sia dalla comunità internazionale, sia dal governo serbo che dall'assemblea kosovara che è appena stata eletta. Invece per quanto riguarda la partecipazione albanese, vista sempre dal punto di vista dei serbi? Anche lì la comunità albanese non è andata a votare in massa come nelle precedenti elezioni, penso che le percentuali si assettano sul 60%, 65%. Quello che hanno espresso con queste votazioni è sostanzialmente una non decisione, nel senso che è rimasto un po' lo status quo, ovvero i partiti che erano al governo, i primi tre partiti sono rimasti comunque nelle loro posizioni, probabilmente l'LDK ha perso qualche voto, il PDK ha guadagnato qualche voto, ma in generale sarà un governo comunque come prima di coalizione, per cui saranno questi tre partiti che formeranno la maggioranza. C'è questa novità del partito ora di Suroj Veton, che è un giornalista e che comunque nella campagna elettorale ha puntato più volte sulla libertà per tutte le minoranze e su un'eguaglianza di diritti per tutti i cittadini del Kosovo, per cui minoranze, compresi serbi, ascali, rom. Soprattutto in città grosse come Pristina ha raggiunto una buona quotazione e questo fa sperare che appunto sia l'inizio di questo processo di integrazione che insomma che tutti vorremmo vedere. Ecco, e che cosa cambierà secondo te nel rapporto tra le etnie dopo queste elezioni? Ma direi che non vedo dei grandi cambiamenti, anche perché tutto ormai è stato posticipato all'inizio dei colloqui sullo status per il Kosovo che sono fissati per il prossimo febbraio, per cui diciamo che questo voto è stato abbastanza così interlocutorio di un po' di passaggio, attendendo appunto questi colloqui che inizieranno a febbraio. E lì probabilmente si deciderà il vero futuro della gente in Kosovo, sia albanesi che minoranze. Questa elezione ha solo confermato il precedente risultato, però non ha portato a delle grandi aperture.